siamo re, io sono re. Furbo ed abile, viaggio come un missile, cerco l'impossibile. Forza, miei cari amici. E se la forza del male mi assale di Elze, mi innamoro. Camminerò, camminerò, siamo sempre in tre. In una fiaba chissà, o in una storia di re. Ma che bel castello ed è tutto per me. Re delle birichinate, questo è Zorori. Le birichinate che sono mitiche, super leggendario amico, dimmi la verità. Guarda, guarda sulla luna la tua mamma Zorori. Sei solo Zorro.